internazionale. State ascoltando Radio Cina Internazionale, amici ascoltatori ben ritrovati. Ecco il sommario delle principali notizie odierne. Fruttuosa la visita di Pechino qui in Cina. Sochi, promozione della risoluzione pacifica del problema siriano. Alle notizie seguiranno un programma musicale e cinese per ogni giorno. Eccovi ora il nostro notiziario. Il 10 maggio il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha concluso la sua visita in Cina ed ha fatto un ritorno in patria. Tornerà la sua visita di 5 giorni in Cina. Cina e Israele hanno raggiunto molti risultati nella cooperazione economico-commerciale, tra cui la firma di accordi commerciali per un valore di 400 milioni di dollari. In un discorso pronunciato prima di lasciare la Cina, Netanyahu ha affermato che la sua visita è stata molto fruttuosa. Cina e Italia hanno acconsentito a fondare un gruppo speciale composto da funzionari dei due paesi per rafforzare la cooperazione nei campi della scienza e tecnologia e dell'economia e commercio, il che riveste un importante significato per Israele. Secondo i media, gli accordi commerciali da 400 milioni di dollari firmati dai dipartimenti economici delle due parti permetteranno alle relazioni commerciali sino-israeliane di superare quasi 2 miliardi di dollari. L'11 maggio a Beijing si è tenuta la sesta conferenza della Commissione di Guida per la cooperazione bilaterale sino-Vietnam, durante la quale le due parti hanno raggiunto ampi consensi sulla promozione della completa cooperazione strategica, affermando di trattare appropriatamente le controversie sul Mar Meridionale e rafforzare la cooperazione marittima. Il presidente della parte cinese e consigliere di Stato cinese, Jiang Zhengzhe, ha sottolineato che nei suoi anni è una fondazione. La commissione di guida della cooperazione bilaterale sino-vietnamita ha svolto un ruolo importante nella promozione della reciproca fiducia politica e della concreta collaborazione. Le due parti dovranno mantenere i contatti ad alto livello ed approfondire gli scambi strategici. Il vice premier vietnamita, Le Nguyen Chien Han, osservato che il partito e il governo vietnamita presta una particolare attenzione alla concreta cooperazione strategica con la Cina, intende continuare ad approfondire le relazioni d'amicizia tra i due paesi, rafforzare la reciproca fiducia politica e tradare appropriatamente le controversie sul Mar Meridionale. Il 10 maggio a Beijing, il consigliere di Stato cinese, Yang Jiechi, ha avuto un incontro con il ministro degli esteri indiano, Salman Khurshid, in visita in Cina. Per occasione, Yang Jiechi ha affermato che negli ultimi anni i rapporti sino-indiani hanno visto un rapido e completo sviluppo, il che ha portato degli interessi concreti ai popoli dei due paesi e promosso la pace e lo sviluppo della regione del mondo. La parte cinese presta molta attenzione ai rapporti con l'India e intende attuare insieme a quella indiana gli importanti consensi raggiunti dai leader dei due paesi e non è risultati a tanto livello, promuovendo l'ulteriore sviluppo della partnership di cooperazione strategica. Nel frattempo, occorre continuare a promuovere il processo delle trattative sul problema dei confini, così da salvaguardare continuamente la pace e la tranquillità delle zone di confine. Il 10 maggio, presso la sede generale dell'ONU a New York, il rappresentante permanente cinese all'ONU, Li Baodong, ha ribadito che la Cina sostiene lo svolgimento di un ruolo guida dell'ONU e del suo consiglio di sicurezza nella cooperazione internazionale nell'antiterrorismo. Invita la comunità internazionale a continuare a rafforzare la cooperazione in modo da prevenire e combattere continuamente il terrorismo. Li Baodong ha affermato che la Cina intende continuare a partecipare attivamente insieme alle varie parti al lavoro delle diverse commissioni, così da promuovere continuamente il processo di interdizione della proliferazione nucleare, mantenere l'autorità e l'efficacia del meccanismo delle sanzioni ed aiutare i paesi membri, in particolare quelli in via di sviluppo, a rafforzare la loro capacità di lotta al terrorismo. Il 10 maggio a Sochi, il presidente russo Putin e il premier britannico Cameron hanno avuto un colloquio, durante il quale le due parti hanno affermato che promuoveranno la risoluzione pacifica per il problema siriano. Secondo una notizia del website ufficiale della presidenza russa, nella dichiarazione rilasciata dopo il colloquio, Putin afferma di aver discusso con Kamala sulla possibile bozza di sviluppo del quadro siriano in una direzione positiva e misure concrete per la risoluzione della crisi siriana. E misure concrete per la risoluzione della crisi che travalica il paese. Le due parti sterrano nella pronta fine delle violenze in Siria. Putin non ha però liberato i contenuti specifici delle misure concrete. Durante una conferenza stampa del 10 maggio, il vice portavoce del Ministero degli Esteri francese ha affermato che la Siria deve istituire, in base al riconoscimento delle varie parti, un governo transitorio dotato di un completo potere amministrativo. Il portavoce ha detto che la Francia propone sempre di convocare una conferenza successiva alla conferenza di Ginevra sul problema siriano, ritenendo che la conferenza dei ministri degli esteri del gruppo d'azione sul problema siriano, tenuta nel giugno del 2012 a Ginevra, abbia gettato la base iniziale per la risoluzione politica del problema. Quindi ha aggiunto che il 7 maggio a Mosca il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un incontro con il segretario di Stato statunitense John Kerry. Russia e Stati Uniti sperano nella risoluzione della crisi siriana tramite trattative, perché la parte francese è felice. Secondo quanto riportato il 10 maggio dalla TV di Stato Svizzera, il governo svizzero intende ospitare una conferenza internazionale sul problema siriano, così da trovare una bozza di risoluzione della crisi siriana. Citando un diplomatico del paese, la TV Svizzera ha annunciato che, dopo che Stati Uniti e Russia giorni fa hanno deciso di tenere una conferenza internazionale sul problema siriano, il governo svizzero ha espresso l'intento di patrocinare i lavori. Alle 8 dell'11 maggio, ora locale, in Pakistan sono iniziate le votazioni per l'Assemblea nazionale. La commissione elettorale pakistana ha affermato che gli elettori registrati sono quasi 86,2 milioni, 37,6 milioni dei quali donne. Tuttavia, per l'assassinio di alcuni candidati e il deterioramento dell'ordine pubblico, soltanto in 268 distretti le elezioni si sono tenute secondo il previsto. Un portavoce della parte militare del paese ha affermato che questa ha disposto 75.000 soldati in tutto il paese per garantire la sicurezza delle elezioni. Il 10 maggio si è conclusa la conferenza africana del 23° Forum Economico Mondiale, durante la quale i paesi africani sono stati invitati ad impegnarsi al massimo per liberarsi il più possibile dalla dipendenza del sostegno estero, realizzare le promesse dell'Africa. La conferenza ha mirato a promuovere la crescita economica del continente, l'accelerazione della costruzione delle infrastrutture strategiche e la formazione dei talenti africani. Il 10 maggio, il famoso economista americano Martin Feldenstein ha affermato che la politica di quantitative easing promossa negli ultimi anni dalla Federal Reserve mira ad elevare i prezzi degli assets, così da ampliare gli effetti degli assets dei consumatori e promuovere la crescita dei consumi. La realtà dimostra però che i risultati di questo tipo di politica sono minimi e che la politica monetaria della Fed è ormai entrata in un vicolo cieco. Il 10 maggio il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Enrico Letta, ha incontrato il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, con cui ha discusso la crisi economica e le problematiche dell'occupazione e dell'evasione fiscale. Letta ha inoltre chiesto esplicitamente che la riunione del prossimo Consiglio europeo venga totalmente dedicata alla tematica e che si pensi delle soluzioni anche per il breve periodo. Radio Cina Internazionale trasmette quotidianamente sulle onde medie, ossia dalle 19 alle 20, ora italiana, su una frequenza di 1458 kHz. La musica è senza confini. Condividiamo la gioia, la gratitudine e la speranza che trapela dal mondo delle note. Ciao a tutti, come state? cosa avete fatto di interessante in questa prima stagione? Nel programma di oggi parleremo dei gruppi musicali che ultimamente godono di grande popolarità. Di seguito ascolteremo i brani dei Black Keys, Mumford & Sons, Sam e Maroon 5. Bene, cominciamo subito con Lonely Boy, primo singolo dei Black Keys, dal loro settimo album, Il Cammino. Rock, originario degli Stati Uniti, il cantante dei Led Zeppelin, Robert Plant, insieme a Tom Rocky e Johnny Greenwood dei Radiohead, sono dei grandi fan della band. Ai Grammy Awards 2013, proprio grazie a El Camino, la band ha vinto due premi importanti, miglior album rock e miglior canzone rock. Just let you do the best of my mind. come gruppo folk rock, Mumford & Sons ha delle caratteristiche uniche e affascinanti. La band si è formata nel 2007 a Londra. Il 21 settembre 2012 è uscito il loro secondo album, Babel, che ha raggiunto il primo posto della classifica assoluta di Billboard. Il disco ha anche vinto il Grammy Awards 2013 come miglior album, battendo i fan, Frank Ocean e altri candidati importanti. Gran parte dei testi scritti dalla band risentono di una forte influenza letteraria. Again. I'm a hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's plan. So ritrovati. Oggi stiamo parlando dei gruppi musicali più popolari negli ultimi tempi. Nei nostri programmi precedenti ne abbiamo parlato più volte dei fan, indiscutibilmente molto famosi. Nate Rose, voce della band, dopo aver vinto per Via Young, ha detto scherzando: non so a cosa stavo pensando mentre scrivevo il ritornello di questa canzone. Se questo è in alta definizione, tutti possono vedere le nostre facce. E noi non siamo molto giovani. Why Am I The One è il quarto singolo dall'album dei Fun, Some Night, uscito il 26 febbraio 2013. Why you not? Parliamo dei gruppi musicali pop, alternative rock. Non possiamo non citare i Maroon 5, influenzati da artisti come Michael Jackson, dai Police, dai Talking Heads e da Prince. Il tema principale delle loro canzoni è l'amore, come per esempio dell'album Songs About the End. Il 26 giugno 2012 è uscito il loro terzo album, Overexposed, considerato dal chitarrista Tim Maranzai come l'album più pop. Yeah.

amici, bentornati. Oggi abbiamo parlato di quattro gruppi musicali che hanno uno stile simile, ma con caratteristiche proprie e propri punti di forza. Quale tra queste band è la vostra preferita? Quasi 8 anni fa ho ascoltato la prima volta il brano She Will Be Loved dei Maroon 5 e sono rimasta subito incantata dalla loro musica. Credo che nel profondo dei nostri cuori ci sia sempre una canzone di cui non ci scorderemo mai. Forse perché i ricordi evocati dalla canzone sono i più indimenticabili. Bene, terminiamo qui il nostro programma di oggi. Allora, in compagnia della canzone She Will Be Loved. Buon ascolto e a risentirci al prossimo appuntamento. Ciao. Cinese per ogni giorno. Studiamo il cinese sulla base della nostra lingua madre, l'italiano. State ascoltando Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, benvenuti al programma Cinese per un giorno. Sono San. Ciao a tutti, sono Elenia. Nella lezione scorsa abbiamo imparato delle domande in cinese relative all'asilo. Per esempio, per chiedere c'è l'autobus una veta, in cinese puoi dire Io meio pancio. Io meio pancio. Pancio autobus una veta. Pancio. 每天几点接送?每天几点接送? A che ora prendete e riportate il bambino? 几点? A che ora? 几点接送? Vuol dire prendere e riportare. 接送? 端午节我们放三天假. Per la festa delle Barche Drago facciamo 3 giorni di vacanza. 端午节我们放三天假。端午节 festa delle Barche Drago. 端午节放三天假 facciamo 3 giorni di vacanza. 放三天假. Alla fine, se il tuo bambino vuole presentare un biglietto d'auguri al maestro, puoi dirgli 这张贺卡送给您。这张贺卡送给您。 这张贺卡, questo biglietto di auguri. 这张贺卡, 送给您, per lei. 送给您. Il nostro ricorso termina qui. Ora passiamo alle frasi chiave di oggi. Yo问题吗? 这个字是什么意思? 请您再说一遍。请慢一点说。 San, studio cinese nel tempo libero, ma ritengo che sia più facile con l'aiuto di un insegnante. Voglio dire, è più efficace. Potresti dirmi alcune espressioni in cinese di domanda all'insegnante? Certo. Forse hai delle domande da fare, come all'estero. Devi prima alzare la mano, anche l'insegnante ti chiederà. Io wenti ma? Hai delle domande. Io wenti ma? Io vuol dire avere. Io wenti, quarto e secondo tono, significa domanda.

trasformando nel contempo la loro capacità di analisi e soluzione dei problemi, organizzazione, coordinamento e cooperazione di gruppo. La nostra lezione di oggi termina qui. Prima di concludere, vi proponiamo come al solito un piccolo test. Come si dice in cinese, potrete parlare più lentamente? Se conoscete la risposta siete pregati di comunicarsela all'indirizzo email creeitaliano@yahoo.com.cn. Ripetiamo, creeitaliano@yahoo.com.cn. Se volete delle informazioni più dettagliate siete invitati a visitare il nostro sito internet italian.cree.cn. Grazie dell'ascolto e a risentirci alla prossima puntata. State ascoltando Radio Cine Internazionale. Amici ascoltatori, vi ricordiamo che Radio Cine Internazionale trasmette quotidianamente sulle onde medie, sulla frequenza di 1,458 kHz, dalle 19 alle ore 20, ora italiana. Fine della trasmissione. Amici ascoltatori, vi auguriamo una buona sera.